ascoltare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. Sì, per raccontarsi, per raccontare, ma siamo anche in diretta... Ragazzi, finalmente webcam. Oh, c'è la webcam, davvero? Dove la vedarmi però? Fatto, sì. Ci avvediamo? Avvedetevi? Mi avvedo? Io mi avvedo. Ah sì, eccomi. Quello mi assomiglia, Sì. Fantastico. Però è versione natalizia, sta veramente bene. Sì. Finalmente ci siamo. Oh. Ce l'ho fatta. Siamo tornati. Bravo, finalmente. Bravissimo. Prima dell'ultimo dell'anno, tra l'altro. E quindi dov'è che ci vedono in questo momento? In diretta streaming. Quella. Su Resto Radio Convento, allora. Yes. Yes. La radio per raccontare e raccontarsi. E poi ci potremo vedere. Ci potremo vedere anche in podcast. Bene. E qua. Già a sentirci ce ne sono delle belle, figurati anche a vederci. Mamma però non ti mia. Sento, non ti sento tanto. Non Nadia. Mi senti tanto? Adesso mi senti meglio. Adesso io la sento. Attenzione, attenzione, mi vediamo. Mi senti? Angioletti. No. Angioletti. A che ti vedono adesso? Non toccare mai la telecamera di Mr. Dave. Adesso lo vedete tutti come ci sgrida Mr. Dave. Sei visto? Tiranno. È un tirannosauro. Perché Ubi Maio Minor Cessalt ha detto che sì, il cuore lo, al contrario lo sai Mr. che adesso Dave. Ti vedo vabbè. fallo entrare almeno ho paura aspetta un attimo che faccio? Aspetta un attimo perché io ho attenzione come la luna gira intorno a te io attenzione perché ho come la sensazione che debba venire qualcuno proprio veramente e siamo nel periodo dell'avvento ma campanellino chi ha suonato? Campanellismo? Non fare campo. Chi è? Qualcuno suona la porta. Sì. Pronto? Pronto? È Gigi. Ma prova a vedere chi c'è. Prova a vedere. Vado, scusa, ma sono in accappatoio. Vado lo stesso? No, mi vedono adesso. Che ti vedono? Fallo entrare. C'è un venditore. Attenzione. Oh. Questo ragazzo è un venditore che va dritto all'obiettivo. Spegni il faro, per favore. Che abbaglia la telecamera. Sei abbagliante? Sei anche bagnale? Oh, ha spento. È arrivato Angioletti e Natalizio. Gli Angioletti Natalizi sono arrivati in un bagliore. Ti sta guardando di un male. Mi sta male. Spurgonando la mia telecamera. Ti sta guardando di un male. Dove vai? Dove vai? Sei venuto, Alex, hai fatto un errore gravissimo. Ecco, casualmente. Fatto un altro gravissimo. Guarda che siamo in diretta webcam. Si vede da che parte passa, Ragazzi, io ho le mani alzate, però... È vicino al microfono, per favore. Ho le mani alzate, però non posso garantire altro. Ma non ho sentito niente, quindi... Troppo secchiato. È caricato a salve adesso, perché saluta. Okay. Salve. Ma siamo in diretta? Sì, siamo in diretta. Siamo in diretta. Allora, devo dire la verità, grazie innanzitutto per avermi dato questa occasione di poter girare col tuo Martingegno. Sì. Perché è una vita. Poi che faremo i conti, comunque. È una sai. Vita che sognavo di fare il regista dei film porno. Andavo in giro con la tua telecamera. Buona la prima. Ti sei schiccato un pochettino. Sì. Mi sono schiccato. Ragazzi, vi ricordo che siamo in diretta. Schicchi. E siamo anche in fascia protetta. Ascolta, ma te quando è che inizi i provini, Nadia? Di che cosa? Le film. Gelo totale. Glaciale. L'era glaciale. È stato fondamentale l'arrivo di Angioletti. Per fortuna che c'è Andrea Angioletti che è in alto sempre il livello culturale delle nostre trasmissioni. Per fortuna aspetta, che stai c'è. Ferma lì. Ferma, ok? Perfetto. Senti, che dischi metterai questa sera? Allora, non sicuramente al contrario come ho fatto anni fa in una festa privata che veramente mi ero preoccupato. Sai cosa è successo? Mi ero preso bene, avevo bevuto tantissimo, facevo il DJ in una festa privata, tra amici e così intende. Devi stare attento a raccontare queste cose alla radio. Ho messo il CD al contrario e il lettore mi dava errore, ho detto cazzo ho rotto il lettore, invece in realtà era il CD che non leggeva giustamente. Ma no, io pensavo che che cantante cantasse al contrario, no? Solo se è satanista, se non funziona. Ci sono messaggi subliminali? No, ultimamente sto ascoltando un po' di satanisti. No, di death metal. Ma musica tipo natalizia. Sapete i death metal? Sì, infatti, non era un rutto. No, sono tutti incazzati perché quando cominciano. Ma non sembri uno che ascolta quella musica lì. Ci siamo censurati. Non sembri proprio. Oggi in effetti quando ti ho videochiamato avevi i capelli un po' a larga. Oggi l'ho videochiamato stamattina, cioè mia videochiamata. E poi abbiamo pure fatto il metti giù te. No dai, metti giù te. Dai, metti giù te. Ma quanto mi vuoi? Ma quanto mi ami? L'abbiamo fatto davvero. Dai, metti giù te, non sono capace. Allora metti giù. Tempi della SIP. Vabbè. Mamma che fatto ancora. Ragazzi, abbiamo ancora 7 minuti. Pronto, no, però io volevo salutare. La sai? Nop. Ma sapete cosa fa una mucca su un frullatore? No. Ma pensa che ci stanno pure ascoltando. Pure vedendo. Non so cosa sia peggio a questo punto. Vabbè, ragazzi, vogliamo salutare gli amici allora, che ci hanno sopportato fino adesso. Questa era proprio una prova per la webcam che siamo riusciti. Ecco, continuate a seguirci tranquilli che la smetteremo di dire cavolate. No, seguiteci che noi non vi denunceremo per stalker. Però vorrei dire una cosa: tutte le radio del mondo hanno la loro canzone di Natale e noi non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, quella dell'anno scorso. La facciamo tutti insieme? Dai, tutti qual insieme. È? Anche il convento ha la sua canzone. L'ho inventata io. Angioletti. Ci siamo? Non te la ricordi? Single bell, single all the way. Ma non c'è zecca niente. Vabbè, è il single. No, era per la festa dei single. Che non facciamo più da un anno. Cavolo, vabbè. Allora dobbiamo inventare un altro. Non sono aggiornati, ragazzi. Mi deludete. Ma con questa cavolata salutiamo tutti gli amici a casa e li invitiamo alla grande musica di Alex Angioletti, che metterà i dischi nel verso giusto, vero? Sì. E a Mr. Dave che non metterà heavy metal. No. E mi mangio e io non digerisco in diretta. E le mucche non saliranno sul frullatore. E prometto che mangerò qualche caramellina. Ma sai che in giro per Tenerife c'erano le mucche con scritto Ale Hop? Questo non l'ho capito. Dopo ti faccio vedere la foto. Sì, ma io ho riso per cortesia. Ah, ok. Io per qualità. Cioè, non l'ha capito nessuno. Io ho riso perché ero dinese. Va bene, tu per convenienza, ridi per convenienza. Qualità, convenienza e cortesia abbiamo fatto. Questo è l'indice. Ci hanno scelto. Ah, no, scusa, questo è il pollice, questo è l'indice. Ma che facciamo? Salutiamo? Ciao a tutti. Buonanotte. Mi dai il tuo telefono? Ciao. Ma ciao. Io direi buonanotte al secchio. Ciao, buonanotte. Assorto. Cosa vuol dire? Ciao ragazzi, ciao. Ciao. A chi dobbiamo salutare? Ciao. Sapete che sembrano degli stupidi da fuori. Ciao. Mi dai il tuo telefono?